Ngasa, Lowe. Magandemba, Lowe. Maganuguna, Lowe. Ngolo kigele di jene. Akinzanga yaya, akinzanga yaya, amola lo wawa, amola lo wawa, akasabobo wawa, akasabobo wawa, akinfai wawa, mangalo nwani legami mano, mangalo nwani legami mano, mangalo nwani legami mano. Manga misa mi rigomina, manga misa mi rigomina, manga misa mi rigomina.